8 e 33 minuti per questa puntata speciale della rubrica in mostra. Come vi ho detto, ogni stacco si riprende con la sigla dei Modern Jazz Quartet, e così è. Intanto che anticipiamo questo contenuto meraviglioso, al Museo dell'Ottocento ha ricevuto importanti riconoscimenti, uno in particolare dall'Art Tribune come apertura giovane più importante per quanto riguarda la sede espositiva del Museo dell'Ottocento. Onore al merito a Francesca Sinigaglia, direttrice della sede espositiva, che con tanto entusiasmo ha portato un protagonista per la nostra città da non perdere assolutamente. Stiamo parlando di Mario De Maria, Marius Pictor. Ne ricorre il centenario della scomparsa, 1924-2024, il titolo dell'esposizione Ombra Cara. A 100 anni dalla morte, 70 opere provenienti da prestigiose istituzioni museali e da collezioni private celebrano il pittore simbolista tra i fondatori della Biennale di Venezia. Abbiamo parlato di tanti temi, abbiamo parlato del verismo, abbiamo parlato del mito, abbiamo parlato di una classicità del sacro, ora parliamo anche di un aspetto del fantastico con Basoli, ora parliamo di simbolismo. Lui è stato un grandissimo simbolista. In che modo? Ne parleremo con Francesca Sinigaglia. Intanto due parole a proposito di questa affascinante corrente artistica. Intendiamo come movimento culturale sviluppatosi in Francia negli ultimi due decenni del XIX secolo, che si manifesta non solo in arte figurativa ma anche in letteratura, in poesia e in altre espressioni di ispirazione giusta appunto simbolista. Ci soffermiamo sull'arte figurativa, che ovviamente ha visto grandissimi autori. Nelle arti figurative il simbolismo nasce in accordo, ovviamente vista l'epoca, con le teorie e i lavori dei neoimpressionisti, soprattutto per quanto riguarda una rappresentazione, si può dire, di soggetti ispirati alla natura, a cui i simbolisti attingono fermamente. Ricordiamo tante opere, una su tutte, L'Isola dei Morti di Böcklin, che per me è uno dei capolavori più importanti, ma anche Il Lucifero di von Stach, anche tanti altri, non so, Ugo Sindberg con L'Angelo Ferito, è un capolavoro anche questo di tanta tenerezza e dolcezza, oltre che di aspetto simbolista. Influenzati dalla letteratura, come vi ho già detto, a diverse espressioni che attingono non solo dall'aspetto di tecnica figurativa, ma come ho detto in precedenza, da tanto altro. Il simbolismo è dedicato a un pubblico curioso che vuole ricercare questo simbolo, che attraverso questo, oltre che dare interpretazione, oltre che dare bellezza, il simbolismo è un gioco. Il simbolismo è un gioco colto, mi permetto di dire. Il simbolismo ha avuto modo di dare agli artisti che hanno portato tutto ciò il motivo di personalizzare ed esserne riconosciuti. E per quanto riguarda Mario De Maria, grazie a Francesca Sinigaglia, troveremo la modalità simbolista dell'artista bolognese di cui 1924-2024, a 100 anni dalla sua scomparsa. Entriamo al Museo dell'Ottocento, altra mostra da non perdere, e con tanto entusiasmo, vicino a Francesca Sinigaglia, ascoltiamo un'anticipazione di questi contenuti che sarà fino al 30 giugno 2024. È un grande percorso esteso, figuriamoci se il Museo dell'Ottocento, a proposito del lungo Ottocento a Bologna, poteva mancare. Con Francesca Sinigaglia diamo anticipazione di questi contenuti. È la prima giornata di primavera, si apre la rassegna, sono ben contento di far conversazione con te. Grazie e buongiorno. Grazie come sempre per l'invito e per ormai l'apertura, che è una tradizione davvero, perché adesso stiamo per entrare in conferenza stampa. È vero, è la prima giornata di primavera ed è una giornata di luna piena. Anche. Quindi è perfetta per il Pictor. Abbiamo un protagonista assoluto. Sì, assoluto. Abbiamo veramente un Michael Jordan, se facciamo un parallelismo cestistico, ma torniamo in questo momento più attinenti all'arte di chi? Di Mario De Maria, detto anche Marius Pictor, un artista che nasce nel 1852 a Bologna e fa parte di una tradizione incredibile di appunto artisti bolognesi, tra cui voglio ricordare Giacomo De Maria, che è stato il campione del neoclassicismo. Mario De Maria, che muore nel 1924, viene celebrato quest'anno dal Museo 800 Bologna con una grande mostra che io sto preparando da quasi 4 anni, tra parentesi, anche un po' di più, perché quest'anno ricorre il centenario della morte, quindi naturalmente era assolutamente fondamentale celebrarlo con appunto una monografica straordinaria, ecco, che vede delle opere inedite con appunto opere che sono state presentate alla Biennale di Venezia, opere che sono state presentate anche a Bologna, ma completamente inedite e che sono state riscoperte, ecco, una grande mostra. C'è Taylor, ma il nostro simbolista in musica è il trombettista di ricerca nell'avanguardia contemporanea Rob Mazurek. Soffermarmi su ogni opera, perché è una mostra già la mia passione per il simbolismo. Ha un percorso che prende avvio dai primi anni della formazione a Bologna all'esperienza romana, dove Roma diventa di un'importanza incredibile, ci sono testimonianze che danno motivo al nostro entusiasmo e addirittura a Roma scrivono di lui: guarda, ormai sei importante, visto le sue origini felsine, sei importante come i tortellini, le tagliatelle e poi Mario De Maria, ovviamente, ma non sappiamo bene come fare una classifica perché sono le eccellenze bolognesi. E la mortadella, ecco cosa vi era aggiunto in questo trittico: mortadella, tortellini, tagliatelle e il Marius Pictor, la nostra città riconosciuta per quello nella capitale. D'Annunzio lo definisce il pittore delle lune e ci sarà un'opera prettamente simbolista dove questo potrà essere intuito da un visitatore curioso, una esposizione che ha tratti anche gotica, se vogliamo. Le architetture, come venivano riprese da Mario De Maria, di importanza nel suo addentrarsi, nell'essere così da balotta, se vogliamo, anche disponibile al convivio e tutto, ma anche molto sulla sua strada, è molto convinto, molto caparbio nei suoi concetti. In che modo simbolista? Lui è il simbolista per quanto riguarda Bologna, è una corrente di cui ho grandissima passione. Dove troviamo il simbolismo nelle interpretazioni di De Maria? Allora, lui è molto particolare perché si forma all'Accademia di Belle Arti di Bologna e lui per primo diceva fin da giovane: io avevo la testa più avanti delle mani. La testa più avanti delle mani significa che le opere di De Maria fin dall'inizio hanno qualcosa in più, che sono legate al simbolo. Il simbolo è legato alla luce. Lui riesce attraverso la luce a far parlare le opere, anche se all'inizio sembrano solo dei paesaggi, dei semplici paesaggi, ma ci sono sempre dei dettagli che sono scoperti

ed è straordinario, ecco. E la mostra si concentra sulle loro parole, quindi io non esisto più. Io come storica dell'arte ho solo fatto un lavoro sulle fonti, questa volta solo. Tra virgolette. Solo. Va bene, ho 4 anni che trascrivo, ma va bene. E la mostra ci verrà raccontata da loro. Da loro. Sì, e vedo, scusa, ti intrattengo un attimo solo per L'ombra cara. Perché questo titolo? A proposito di luce. Perché è il titolo del ritratto che Vittore Grubis The Dragon fa alla figlia Silvia. Viene regalato, quest'opera viene regalata a De Maria per fare in modo che De Maria si riprendesse da questo suo questa sua debacle psicologica, ma allo stesso tempo avremo in mostra quest'opera che fa da chiave di volta a tutte le sezioni, molto particolare anche l'allestimento. E poi allo stesso tempo ovviamente il titolo è legato ovviamente all'ombra di De Maria e alla luce, quindi certo. Era perfetto, secondo me. Spero che lo sia anche per voi. Ti ringrazio tantissimo e ti auguro buona giornata. Buona mostra. La figlia, tra l'altro, giovanissima, scompare per una peritonite trascurata. Siamo arrivati al termine, più o meno puntuali, leggermente in ritardo. Queste 3 esposizioni le trovate ovviamente anche sulla pagina, sul mio profilo personale, sulla pagina Facebook del Breakfast Club. Da Collegio Venturoli a Palazzo Fava, Museo dell'Ottocento, ringraziando le voci che hanno partecipato a questo addentrarsi nel lungo Ottocento bolognese. Quindi io vi do appuntamento a giovedì prossimo, vi ringrazio per l'attenzione e chiaramente anch'io vi auguro buone mostre. Domani andremo a teatro invece, e non solo, per la vigilia di weekend. A breve Liberi Dentro, tra poco l'Edipeo Enciclopedico, la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, e A Tutto Rock fino alle 12.30 con Angela Zocco e Andrea Gozzo. A tutte e a tutti un buon ascolto, servo vostro William Piana vi dà appuntamento a colazione per domani. Ciao, buona giornata, buon giovedì.